devo andare. Ecco, buonasera a tutti, sono Valeria Teresa della Biblioteca Provinciale Claudio Augusta, la biblioteca che organizza presentazioni di libri in questo contesto in particolare presso il Centro Trevi da qualche mese a questa parte. La nostra sede è via Mendola 5 ed è il posto dove poi svolgiamo tutte le attività. Ci spostiamo, veniamo per il Centro Trevi anche per promuovere quell'istituzione, che è un'istituzione appunto che mette a disposizione in primo luogo l'informazione, la cultura attraverso libri, ma anche attraverso piattaforme digitali e information literacy. Quindi chi avesse piacere può venire a trovarci, siamo appunto in via Mendola 5, ma abbiamo anche un sito che può essere facilmente consultabile, nel quale mettiamo anche online le conferenze che teniamo, quindi se siete curiosi di conoscere le nostre attività settimanali basta sentire nel podcast quelle che sono le nostre iniziative o guardare il calendario. Questo perché il compito della biblioteca è soprattutto quello di promuovere cultura, di promuovere la lettura. La lettura in varie forme, in varie così, modalità, quindi da quella tradizionale il libro, ma anche appunto quella digitale, verso cui ci stiamo muovendo un po' lentamente ma con convinzione. La biblioteca è anche un posto dove ci si può trovare a disposizione di tutti, è di tutti, è voluta da tutti, nel senso che è un posto dove chiunque può chiedere un'informazione, può avere, trovare così la risposta a un quesito, può avere del materiale per iniziare un cammino formativo o semplicemente avere un'occasione di lettura e anche di cambiamento. Questa è una serata particolare, ringrazio i nostri ospiti, le nostre gentili ospiti. Abbiamo con noi Bruna Maria Dalla Governi, che farà la moderatrice di questa serata, una nota scrittrice nonché giornalista, che ci aiuta in questo percorso di diffusione, di promozione da anni, che ci accompagna con grande successo e con grande affetto, direi. La sua professionalità viene messa a disposizione di questa biblioteca, ma soprattutto per amore del sapere, della diffusione, del piacere della lettura. Abbiamo con noi Irene Tocco, una giornalista, scrittrice, che con questo romanzo sta conoscendo anche un grande successo. Abbiamo saputo che già a Trento la presentazione ha riscosso notevole attenzione da parte del pubblico, è un romanzo vincente. Questa sera verrà reso particolarmente interessante e attraente dalle voci di due attrici, sono con noi Carmen Esposito e Maria Piazzaletti, che ci accompagneranno in questa avventura nella conoscenza del romanzo di Irene Tocco. Vi invito a venirci a trovare giovedì prossimo, sempre a quest'ora e sempre in questa sala. Concluderemo la nostra attività di promozione per una pausa poi estiva, con la presentazione dell'ultimo volume di Politica 2015, e poi ci ritroveremo a settembre. La biblioteca comunque continua le proprie attività, continueremo con dei corsi per insegnare come scaricare gli ebook, a come leggere dei giornali in internet gratuitamente e così a scoprire i vari segreti del mondo multimediale. Vi ringrazio e venite a trovarci. Grazie. Buonasera a tutti e mi fa molto piacere di essere qui questa sera appunto a presentare Irene Tocco, una giovane, come vedete, splendida fanciulla che porta il suo libro questa sera qui da noi, dopo averlo portato, come diceva appunto Valeria Trevisan, dopo averlo portato già prima a Trento. Dunque, io devo dire, i titoli di Irene Tocco sono infiniti, sulla quarta di copertina ci sono tutte le sue infinite qualità e attività. Comunque a me è interessato soprattutto, e lo sottolineo come l'ha sottolineato anche Martinelli nell'articolo che è uscito domenica, ieri, sull'Alto Adige, il fatto che a me non è piaciuto mai questo nome di romanzo d'esordio, chissà che cosa vuol dire niente, perché se il romanzo d'esordio non si scrive, abbiate pazienza, perché poveretta, questa comincia adesso, cosa volete farci? Questo mi sembra proprio una cosa sbagliatissima e molto maldetta, soprattutto rispetto a questo libro. Questo libro è estremamente maturo, un libro estremamente complesso, scritto in maniera egregia, con una scrittura densa, una scrittura particolare, e poi è un libro che scava, e questo in fondo credo che sia anche la particolarità di Irene, quella della sua professione proprio, scava in profondità dei sentimenti. E non vi dilungherò moltissimo, ma vi dico soltanto tre o quattro cose che secondo me sono molto importanti in questo libro. Prima di tutto, il libro si presenta con questa bellissima copertina che credo non c'è più, ma lo stesso lo vedrete, c'è anche da acquistare volendo, doveva essere per sempre. È una bellissima copertina con questa figura di donna e dietro naturalmente uno spaccato della città di Bolzano. Ecco, allora, doveva essere per sempre, prima osservazione, è un'osservazione, in fondo il mio mestiere è poi questo, da linguista, da filologa, in qualche modo, anche proprio tanto, ma comunque sì, ecco, ed è questo usare l'imperfetto, doveva essere per sempre. In verità, come ho scritto anche nel mio articolo di 2 settimane fa, non questa domenica l'altra, per conto mio è proprio un inno al è per sempre, non doveva essere per sempre, in questo caso è proprio l'amore è per sempre, doveva essere per sempre naturalmente l'amore, ma in questo romanzo che si racconta appunto, racconta la storia di questo amore, finisce con essere per sempre, numero uno. Numero due, dicevo la scrittura è interessantissima, la ricerca, l'uso, perché non è una scoperta, di questa forma di diario. Dunque questi personaggi, delle quali poi vi parlerà Irene del suo romanzo, sono dei personaggi che vivono proprio nella intimità, nel proprio dentro di se stessi, e perciò la forma del diario, il libro è scritto in questa maniera, è secondo me la forma più adatta a esprimere questo travaglio interiore, questa vita, questo svolgersi degli accadimenti. Altro problema questo, un altro ancora, e questo mi è sembrato interessantissimo, soprattutto oggi, la visione di questa che è un romanzo che, dunque la storia è questa, c'è una storia d'amore tra un lui che si chiama Lucas e una lei che si chiama Maria, questo Lucas sembra che venga da è un cittadino del Sud Tirolo, lei viene da una famiglia che viene da fuori, perciò è una che arriva a Bolzano come tanti di voi, ecco, e c'è già questa differenza, ma la lettura più interessante a mio parere è proprio quella di vedere questa Bolzano che io sono una bolzanina, ci sono nata, cresciuta, vivo le tre culture, vivo i tre modi di vivere, fino a che vuoi, quello che vuoi dire, però sento chiaramente come è in questo libro sentita, vista e giudicata. Bolzano è una città estremamente difficile, e su questo io lo affermo in tutte le maniere, molto difficile, molto settoriale, molto chiusa, e qui questa chiusura e questa lettura attraverso il diario e questo appropriarsi dei problemi del diverso, dell'altro che vive vicino a te ma con il quale hai pochi rapporti, perché è una città dove è difficile avere rapporti. Te lo dico da bolzanina, te lo dico da di dentro come accusa quasi a me stessa, non so in qualche modo. Ecco, e qui c'è tutto questo svolgimento dell'avvicinarsi, del tentare di capire l'altro senza profondamente arrivarci mai. Comincia questo libro con una tragedia nel senso che c'è un meraviglioso viaggio d'amore in una città meravigliosa, San Pietroburgo, un viaggio che termina in una maniera tragica, perché lui, Lucas appunto in questo caso, viene picchiato, e questo segna tremendamente tutta la storia, tutto il libro, tutta la storia di questi due innamorati. Disegna fino a trovare questa stranissima strategia dell'amore, che è una strategia, e qui dico, per quello io scrivo che è un romanzo al femminile, che è una letteratura grande, alta, vista con occhi di donna, questa tragedia del fatto di comunicare, di non riuscire a comunicare, ma che forse il dono più grande dell'amore è quello di dare, non essere dipendenti, di dare a un altro la propria libertà. Io a questo punto lascerei parlare Irene, poi mi riservo di farti alcune domande. Ecco, tu, io vorrei che tu spiegassi un po' come è nato questo libro, come è nato il tuo lavoro e come intendi proseguirlo, perché se questo, buttiamo via questa parola esordio, se questo è il primo, diciamo il primo dei romanzi, ce ne sarà subito o molto presto un altro. Intanto grazie. Grazie. Prego. Allora, io in qualche altra presentazione di libri a cui sono stata, ogni autore ha detto scrivo per non parlare, quindi confesso che non è così facile per me parlare di questo libro, perché questo libro è nato da un'esigenza che era quella di condividere con degli ipotetici lettori, e come sta avvenendo questa sera in questo caso con voi, quello che io sentivo, quello che io provavo, e in questo caso nei confronti dell'amore, quindi un pensiero che mi era, che, ad alcuni pensieri che mi sono balenati in testa proprio a riguardo dell'amore. Quindi diciamo è nato come un'esigenza, l'esigenza di condividere, ma devo essere onesta e non posso solo dire che è stata solo un'esigenza di condivisione, quindi di pensare agli altri, ma anche un'esigenza per me stessa. Io avevo bisogno di dire alcune cose, di metterle per iscritto. Perché? Perché il processo creativo, io scrivo poesie, dipingo, quindi è da anni ormai, da quando ho iniziato 7 anni diciamo a scrivere, quindi la scrittura nel corso degli anni mi è diventata indispensabile come comunicazione. Il processo creativo mi ha aiutato parecchio, mi ha aiutato ad affrontare anche situazioni difficili. In questo caso il libro l'ho voluto dedicare interamente all'amore perché lo ritengo uno degli argomenti più interessanti che uno scrittore possa toccare. Magari sembrerà banale, però per me è un argomento così, così variegato, così, così interessante, che mi sono messa a pensare all'amore, mi sono messa a pensare quando ero in Scozia. Ho letto un libro che parlava di codipendenze, di quanto sono sbagliati i rapporti d'amore, dove una persona dipende dall'altra, dove c'è l'annullamento di se stessi nell'amore, e consigliavano alle giovani coppie di non fare questo errore, perché l'amore non è fondersi nell'altra persona, l'amore non è annullarsi in nome dell'amore. E io leggevo questo libro e pensavo, allora non è amore. E l'amore è fondersi, secondo me, nell'altra persona, l'amore è rispecchiarsi nell'altro. E quindi la scelta di Maria, l'atteggiamento di Maria verso l'amore, per esempio nel mio libro, è un atteggiamento, allora, anche se volete, poco convenzionale, è la scelta di portare questo amore in un'altra, quasi in un'altra dimensione. Sicuramente dici delle cose straordinarie, è in un'altra dimensione che è addirittura al di là della vita, perciò doveva essere per sempre, in questo caso l'imperfetto ci va bene, perché questa vita è imperfetta, in questo senso va bene anche il tempo verbale. Ma volevo dire, portarlo di là, ma è soprattutto la cosa che mi sembrava più interessante, che hai sottolineato proprio in maniera particolarmente efficace, questo fatto di dell'amore visto come grande come il sentimento che muove ogni cosa. Infatti è questo, l'amore è il sentimento, non soltanto l'amore carnale, l'amore, cioè tutti i sensi dell'amore sono il sentimento che muove ogni cosa. Io ho sottolineato il fatto che in questo romanzo, oltre al fatto, ci sono varie sfumature di amore, e una delle quelle che secondo me più hai sottolineato, senza volerla sottolineare, è addirittura quello che è il massimo dell'amore, che è l'amicizia. Che è l'amicizia, che è proprio il darsi senza, cioè darsi come persone senza pretendere niente, questa è l'amicizia. E qui in fondo quello che vince è proprio l'amicizia. La storia, vi dicevo, c'è la storia di questi due, Lucas e Maria, poi la storia di loro due vicini, Sam e il marito di questa ragazza, e fra questi si sviluppa un rapporto di amicizia. E questo rapporto di amicizia anche con altre persone proprio continua, si erge come una piramide, va verso l'alto, tanto che l'ultimo desiderio di questa Maria, di questa protagonista, è quella di confidare, di consegnare alla sua amica più cara, in questo caso questa ragazza che lei ha conosciuto, di consegnare tutto quello che lei ha di migliore nella sua vita, compreso l'uomo che ama e compreso la vita che seguirà dopo la sua morte. Questo senz'altro lo trovo estremamente ben detto. Dicevo, un'altra, hai fatto questa considerazione sulla Scozia che mi sembrava molto interessante, ma chiaramente leggendo questo libro, e lo leggerete e vedrete, è un libro che ti dà lo spessore delle letture, cioè questa non è, tu vai a vedere, non esserci, non senti, questa non è una ragazza che non sa di letteratura, naturalmente sa molto di letteratura. Una letteratura che io amo anche in maniera particolare, che è quella russa, d'accordo, di cui più di una volta si parla di letteratura russa, ma non solo, spazia attraverso tante letterature e tanti modi di potersi appunto esprimersi. E poi, come ti dico, questa sottolineatura che è forse della tua scusa, ti do del tu, certo. Non l'ho neanche chiesto, scusami. Ecco, e come dico, questa tua seconda anima, che è l'anima pittorica, ecco, tu disegni in questo libro, si trova proprio pittoricamente, si trovano i luoghi, si trovano le città, si trovano le situazioni, anche i personaggi sono dipinti, io li vedo proprio corposamente dipinti. E mi sembra una cosa estremamente interessante. Quanto ha, la mia domanda seconda, quanto ha la pittura importanza per la tua vita, per il tuo essere, per il tuo esprimersi? La scrittura, l'hai già detto, ti accompagna da quando eri piccola, che sei diventata molto grande, anche di statura, ecco, ma voglio dire quanto è importante la pittura, poi mi direi della poesia, ma mi sembra, mi pare più importante il discorso sulla, proprio sulla espressione grafica del pensiero, sulla espressione pittorica. Beh, sicuramente come diceva lei, il sono tardi che lei sono io. Allora no, andiamoci. Ecco. Come dicevi, il discorso, secondo sì, si avverte, a me fa piacere che hai avvertito il fatto che io comunque dipingo, perché in effetti io anche i personaggi o comunque lo scenario, soprattutto questa Bolzano che io descrivo, la trovo pennellata e rispecchia secondo me anche molto il mio modo di dipingere, che sono un po' pennellate, che seguono i sentimenti e lo stato d'animo del momento. Quindi devo dirvi che non è una pittura perché ho fatto studi, ho fatto l'accademia, e quindi la mia è una pittura che è un diario, un diario dipinto. È questa fantastica possibilità di raccontare qualcosa anche attraverso il pennello e la tela. Infatti è secondo me importante, è proprio Io in Scozia ho avuto la possibilità di studiare arte terapia, ho vinto questa borsa di studio che mi ha permesso di fare questo master, che tra l'altro è la facoltà di Edimburgo è stata la prima in Europa a considerare l'arte come mezzo terapeutico. Ecco che quindi io ho avuto la possibilità, per esempio, di lavorare con ragazzi con problemi fisici piuttosto che mentali, e io ho visto la potenza dell'arte, tutto il mistero, anche se volete, della creazione pittorica, in quel caso, perché io facevo arte con i ragazzi. Ed è stata per me l'ennesima conferma di quanto il mezzo artistico, in questo caso il pennello, sia una delle forme di espressione più potenti che ci si può immaginare. Quindi non arte giudicabile a livello estetico, se vogliamo parlare in questi termini, ma arte come strumento che non solo io possiedo, ma che tutti voi possedete. Certo, a questo livello mi viene in mente, guarda, proprio un pensiero che non c'entra e c'entra. Uno dei miei incontri più affascinanti è stato quello con Hermann Hesse, e lui, appunto, quando, tu lo sai, accanto alle sue opere di poesia e di narrativa, continuava la sua opera pittorica. E questo incontro che ho avuto con lui è così sotto l'immagine di questo giglio viola, questo giglio che stava lì sul tavolo, e io non lo dimenticherò mai, cioè ho proprio questa immagine legata a lui attraverso la pittura. Ma vorrei dire un'altra cosa sempre riguardo al tuo libro, e qui non l'ho voluto scrivere perché mi sembrava, dico, forse non viene capito, è un libro da leggere con 5 sensi, adesso sembrerà esagerato, però chiaro che non si annusa, le pagine ormai non si annusano più, l'odore della stampa si sente molto poco, però è un libro che va sotto gli occhi, naturalmente, e si ascolta. Io leggo volentieri, quando preparo qualche cosa, mi leggo ad alta voce, leggo malissimo, tra l'altro non è che legga bene, comunque leggo ad alta voce perché lo voglio anche sentire, lo voglio sentire, poi le tue parole hanno un sapore. Sono, in questo caso trovo molto della scrittura anche così dei grandi scrittori, in questo caso russi, che hanno una scrittura che io assaporo, che io sento in bocca, ecco, so come dirti, sono matta, ma così no. Cioè, così è. Sì, così mi sembrava molto, questo mi sembrava una cosa interessante. Poi ascolta, come un'altra delle domande che potrebbe farti qualsiasi persona tra di noi, cioè come tu fai entrare, perché naturalmente io sono convinta, appunto, amore e morte, ci sono i due poli, eccetera, come fai entrare la malattia? Qui la malattia tu la fai entrare 2-3 volte in questo romanzo. C'è la zia, madre, insomma, di Maria, che è Rosa, che muore di malattia, lei, Maria stessa, che muore di malattia, e c'è la malattia dell'anima di tutti questi. Tutti questi personaggi sono malati nell'anima, in definitiva. Forse chi riesce a non essere ammalato nell'anima, perché ci salva dando vita, è sano, perché appunto poi dà vita, cioè nel senso che è il mondo dei figli, e allora in questo caso si salva, però sono tutti malati nell'anima. Ecco, questo senso del dolore, della malattia, che cosa è? Fa parte del tuo discorso che facevi prima, del discorso terapeutico, o secondo te è una tua personale ricerca, non so come dire, di più forse, sì. Penso sì, che andiamo più sulla sfera di una ricerca personale. Un amico una volta mi disse, io ero piccola quando lui me l'ha detto, e questo amico non c'è più, mi ha detto: diffida da chi non è morboso, nell'eccezione latina di malato, perché non ha niente da dire. Io ero piccola e non ho capito quella frase, avevo 15 anni e non l'ho capita. Adesso l'ho capita. Nella malattia, nella morbosità, nell'accezione anche negativa dello sguardo che si posa su qualcuno o su qualcosa, ci può essere una profondità ben diversa dalla mera felicità, anche perché io sono convinta che, per esempio, la felicità dura veramente poco per poterci riflettere sopra, e quindi, se volete, è anche più facile riflettere sul... Ecco, io sono convinta che duri poco, che però si ripresenti sempre, e a questo punto sono molto ottimista. Io, guarda, se piove sono contenta, se il sole anche, e questo mi dà molta gioia, vecchia come sono, mi dà molta gioia, questo te lo dico, come mi fa gioia anche stare qui con te e vedere tutti voi. Perciò, ecco, questo devo dirlo, io questa felicità sono convinta di essere partecipe. Un'altra cosa, ognuno, chiunque scriva, ha per uno o per più, per alcuni, ma di solito per uno dei suoi personaggi, una specie di debole. Qual è nel tuo libro, fra questi personaggi, che poi ne scriverai di molti altri, ma e poi saranno sempre gli stessi, sai, te lo dico con grande cattiveria da vecchia scrittrice, sono sempre gli stessi, ecco. Comunque, diciamo, che qual è il personaggio che ti è più piaciuto scrivere, ecco, diciamo. Luciano, ho pensato molto, sembra quasi solo accennato Luciano nella narrazione, ma in realtà Luciano è molto, molto ragionato come personaggio, e secondo me con il suo animo da clochard è il personaggio poi più libero del romanzo, e ci sono particolarmente affezionata proprio perché è proprio lui il vero Deus Ex Machina della narrazione, quindi mi sembra quasi rassicurante, ecco, io lo definirei rassicurante, Luciano, per me. Bene, molto interessante questa cosa, veramente interessante. Un'altra cosa della quale ero sicurissima, che pur essendo la tua una scrittura veramente al femminile, ed è positivo quello che dico, non negativo, intendiamoci bene, sicuramente avresti avuto per un personaggio maschile più tenerezza, se vuoi, ecco. Comunque questo personaggio di cui parla Irene è un personaggio affascinante sotto tutti gli aspetti, quello di nuovo come Maria rinuncia in fondo all'essere presente nell'amore, non all'amore in quanto tale, perché se ne va, vuole da sola, lontana, Luciano è presente è presente, logico, come dicevi tu, molto conseguente nel suo autodistruggersi e nel suo vivere questa vita senza legami, che è una vita, sì, da crociare se vuoi, è una vita la più libera che ci possa essere, almeno come potremmo pensarla, ecco. Non legata a nessun riferimento, eccetera. E questo di nuovo è impiantato in una città dove il turismo commerciale è importante, perché non si può dire di no, questa è in fondo la città. E queste alcune descrizioni anche abbastanza dure che tu fai in alcuni aspetti della città le trovo molto, molto reali, molto vere, solo il suo aspetto pittorico comunque. Ecco. Io non so, vorrei che ci fossero queste letture per farvi capire cos'è la scrittura di Irene, perché così facciamo bla bla bla bla e nessuno riesce a capire com'è in fondo, di cosa parla il romanzo. A questo punto io direi che farei leggere, dopodiché sono naturalmente le domande per tutti a disposizione. Grazie mille, grazie. Due fanciulle lettrici. Scusa. Tu vuoi dire come cominciano? Questo forse sarebbe il caso. Comincia proprio col primo capitolo, no? Sì, dal dall'incidente. Il primo capitolo si chiama L'incidente, quindi inizieranno. Il libro inizia con questo fatto drammatico in un contesto che doveva essere di pura felicità, quindi adesso magari capirete meglio. San Pietroburgo, agosto 2007. Maria, dice lui con un filo di voce. Allora lei si butta al suo capezzale. Fuori di sé dalla gioia perché Lucas ha pronunciato per la prima volta in quella notte il suo nome. È strano come in determinate circostanze azioni di solito banali possano assumere un'importanza così grande. Nell'udire la voce dell'amato lei si commuove, forse le sue preghiere sono state esaudite. Se l'ha chiamata, vuol dire che adesso la riconosce, quindi ha preso conoscenza, pensa. Quando si avvicina al letto, però, vede che lui è ripiombato in quel sonno immobile. E lei si sente di nuovo sola e desolata. Ha l'impressione che abbiano rubato una parte di lei, che le abbiano strappato una cosa di molto caro. Si domanda come potrebbe vivere se la morte le portasse via quella parte, mozzata, staccata dal suo corpo con tale violenza. Quella parte appartiene a Lucas, si dice, e con un gesto dissoluto si tocca le spalle, quasi a volersi fare forza da sola. Fiorima, per sempre. Le piaceva dirglielo in tedesco, la madrelingua di Lucas, per rendere quelle parole più dense di significato. Era un motto che le piaceva ripetere, come se nel loro amore non esistesse tempo e tutto fosse destinato a durare in eterno. Ancora una volta è notte e ancora una volta lei era sola, ad aspettare che qualche estraneo abbia pena di lei e l'aiuti a risolvere la situazione. Si domanda dove sia la compassione. Si chiede il perché di tanta crudeltà da parte degli altri. Il mondo è indifferente al suo dolore. Maria capisce in quell'istante che la mancanza di compassione rovinerà l'essere umano. Tutto andrà a marcire. L'uomo non ha pietà del suo simile, dice a voce alta. Bolzano, agosto 2008, dal diario di Sam. Mi chiamo Samantha, ma tutti mi chiamano Sam. Non sono una ragazza comune, né nell'aspetto né nel cuore. In una cittadina come Bolzano mi rivolgono spesso la parola in inglese, credendo che io non possa intendere la lingua italiana o quella tedesca. E quando spiego che in realtà sono nata e cresciuta a Bolzano, sui loro volti compare un'impercettibile smorfia di delusione. Mi chiamo Sam e in queste pagine racconterò come mi sono salvata. Da bambina scrivevo favole che avevano gli animali come personaggi e poi crescendo storie di adolescenti. Mai avrei creduto di poter parlare di me, di sentimenti. Prima di questo diario c'è stato un lungo periodo di silenzio. Quel lungo silenzio era dovuto a una delusione. Mi ero iscritta a un concorso di narrativa al quale non mi classificai. La frustrazione aveva tarpato le ali della mia fantasia. Le parole scritte se n'erano andate così come se n'erano andati gli amici, l'amore, le aspettative, i sogni. Inventare con la scrittura. lettura mi piaceva perché soffrivo di insonnia. Quando ho scritto la prima pagina di questo diario, mi è sembrato di morire e rinascere nello stesso momento. È stato dopo aver conosciuto Maria che mi è venuta voglia di tenere un diario. Solo le persone speciali non dormono la notte. Quella frase mi aveva resa subito euforica e mi aveva dato coraggio. Per la prima volta in vita mia non mi consideravo diversa in senso negativo, ma positivo, e potevo trovare un rimedio alla mia tristezza, qualcosa con cui riempire le ore vuote dell'insonnia. Maria rappresenta ciò che io apprezzo di più in una donna: la dolcezza e la femminilità unite alla forza. Lei è diversa da tutte le persone che ho conosciuto fino a questo momento. Credo che il fatto che nessuno le abbia prestato soccorso l'abbia sconvolta. Mi ha detto che non avrebbe mai pensato che l'essere umano potesse essere così privo di compassione. E poi ha aggiunto: solo aiutando il prossimo puoi salvare la tua anima. Mi chiedo cosa si possa provare a invocare aiuto, presi dalla disperazione, e vedere che nessuno è disposto a darti una mano. Il fatto poi che lui soffra di insonnia è fonte di stress per entrambi, non solo per lui, ma l'amore che Maria prova per il suo uomo è diventato ancora più forte dopo quell'incidente, persino doloroso. Tanto doloroso che in alcuni momenti le sembra di impazzire. Mi ha ripetuto più volte che da allora non comprende più le ragioni del destino. Non si capacita del fatto che Lucas sia ancora vivo e si è molto interrogata sulla fragilità umana. Questa sua reazione mi ha colpita. Nemmeno io so spiegarmi perché alcune persone vivono e altre muoiono. Non può essere solo un gioco, una specie di macabro senso dell'umorismo del destino. Una qualche ragione deve esserci. Walter è senza lavoro, ma percepisce l'assegno di disoccupazione, così riusciamo a tirare avanti. Lui sostiene di essere impossibilitato a lavorare per una specie di stanchezza cronica che gli rende qualsiasi sforzo troppo gravoso. Così io mi devo sobbarcare i turni di notte. Non mi ricordo il momento esatto in cui quell'uomo, che mi presenta a tutti come fossi un oggetto di sua proprietà, mi ha proibito di avere del denaro mio e ha voluto amministrare lui tutto quanto. So solo che da allora ho perso completamente la mia autonomia e sono diventata un accessorio. Dunque, è la necessità di fare ordine nella mia vita a spingermi a tenere questo diario. Bolzano, agosto 2008. Diario di Lucas. La pietà è la cosa che più mi preme, forse l'unica legge dell'esistenza umana. È un passo dell'idiota di Fyodor Dostoevskij, secondo me il più grande autore mai esistito. I suoi romanzi sembrano confessioni sussurrate al lettore. In Dostoevskij si intrecciano anime e mondi per parlare di amore, di gioia e di dolore, ma anche di Dio. Un Dio che non conosco e che mi rifiuto di invocare. Eppure è un Dio che mi è familiare, è una figura che mi consola, e vorrei anch'io sapere riconoscerlo tra la gente e smettere di invocarlo solo quando ne ho bisogno. Invece mi concentro sull'essere umano. E come qualche personaggio intransigente nei suoi romanzi, non accetto le debolezze e non perdono la mancanza di amore. Volevo solo parlare di me. Così ho fatto finta di non aver sentito e ho sbottato. Il fatto è che mi aspetto sempre molto dalle persone. Ma le persone sono come figli ingrati che si rivoltano contro i genitori. Cosa intendi esattamente per persone? E cosa ti aspetti di preciso? Ha chiesto Luciano raddrizzando la schiena. Aveva capito che era il momento di cominciare a parlare di qualcosa di serio. Tutti quelli che non sono me, ho risposto toccandomi la fronte. Cominciavo a sudare per via del whisky e dal gran caldo che faceva nella stanza. Sì, ma che cosa ti aspetti esattamente? Ha insistito lui, pur sapendo perfettamente quale sarebbe stata la mia risposta, perché mi conosce bene. Conosce le mie delusioni, le mie tristezze, le mie speranze, le felicità tradite. Mi aspetto che le persone amino, che perdonino gli errori, come farei io, che giudichino con la stessa benevolenza con la quale io giudico i loro difetti, ho risposto. Ma tu lo fai perché sei pigro e non sei severo. Hai sempre una scusa per difendere un difetto, che sia tuo o degli altri, non importa. Guardi con indulgenza qualsiasi cosa possa deviare dal comune buonsenso e dalle convenzioni sociali. Non ami i forti, disprezzi la trasilità e il tuo cuore parteggia sempre per i più deboli, non perché sono indifesi, ma perché ti si stringe il cuore davanti alla loro fragilità. Trovi sempre una giustificazione ai tuoi comportamenti sbagliati e siccome sei troppo pigro per correggerti, vorresti che gli altri seguano il tuo esempio, ha affermato Luciano guardandomi in faccia per vedere l'effetto della sua provocazione su di me. Rosa mi stia guardando. Ora è da qualche parte e non è più solo una persona morta, ma un'anima che si muove leggera. A un tratto, mi disse, senza mai smettere di stringere lo smeraldo che portava al collo. Insieme guardammo l'alba sulle montagne svizzere. E ci abbracciamo quando lei mi disse che con Lucas sarei stata in buone mani. Maria, la migliore amica che avessi mai potuto desiderare, sarebbe per sempre vissuta nel mio ricordo. E poi io credo che la chiave, la cifra di tutto il romanzo sia la compassione. Grazie. Ma volevo dire una cosa. Cosa ti pare sentirti letta? Ecco, è una delle cose che a me, per esempio, fanno sempre paura. Cosa ho scritto, che cosa ho fatto, che cos'è? Tengo sempre sentirti letta. È stato un'emozione, è stato molto bello e ringrazio due professioniste come Carmen e Maria Pia che hanno sicuramente reso questi passi che abbiamo scelto anche abbastanza forse drammatici comunque in entrambi i sensi di dramma anche proprio teatrale, quindi grazie. Ecco. Allora Irene, una donna che scrive con passione. complimenti, grazie. Che se c'è qualche domanda, signori. Ciao, tanto benvenuta a Lugano. Grazie. Allora, l'osservazione della realtà quanto conta in uno scritto così? E poi volevo aggiungere se hai trovato un aspetto particolarmente positivo in questa realtà bordellina, e anche se ne hai trovato uno particolarmente negativo a tuo modo di vedere. Sì, ti rispondo magari dall'ultima parte della domanda, che per quanto riguarda il libro, Bolzano è uno scenario accennato, pennellato, come usare le parole della Benedict, però in realtà i ritmi e il mondo nel quale vivono i miei personaggi è la psiche, e questo forse proprio traspare dalle pagine. Per quanto riguarda l'osservazione della realtà, Bolzano per me, che sono di Trento, è un insieme di tante città, non è una città sola, sono tante città insieme. E scrivere questo libro e ambientare questo libro a Bolzano mi è servito tantissimo, perché dopo il primo momento di vacanza in una città nuova tutto ti diventa di nuovo familiare, come se tu in realtà non ti fossi mai mossa e quello è sempre stato il tuo luogo dove vivi. E quindi riscoprire le vie, i posti, guardare i locali come li avrebbe potuti guardare Luca, insomma, Maria, è stato molto importante anche per me, per quasi rinfocolare questa gioia di guardare questa città, che comunque io appunto ritengo particolarmente interessante sotto tanti aspetti. Grazie. Qualcun altro? Ciao. Ciao. Quanto conosci dei tuoi personaggi prima di descriverli? Bella domanda, al momento direi tanto, perché innanzitutto una cosa che mi è servita molto è pensare cosa farei io al posto loro, quindi entrare nella psicologia del personaggio e chiedermi come agirei io se fossi Maria, come agirei io se fossi Lucas, quindi questo mi è servito. E i miei personaggi sono la somma di tanti personaggi, di tanti caratteri, e osservare la realtà penso che una persona che vuole scrivere è indispensabile, quindi anche i tuoi personaggi, dal momento poi che si può dire li metti al mondo, poi vanno con le gambe loro. Esatto. Un altro? Io quale dolore hai trovato nel descrivere il dolore di questo lato? Se non hai trovato, perché hai detto che hai recuperato personaggi che ha dovuto costruire prima. Ecco, è stata la domanda, la ripeto, quanto dolore nei personaggi e dolore tuo naturalmente nel creare questo. Tanto dolore, tanto che non so se è normale o forse non so neanche se dovrei dirlo. Comunque, quando leggo la fine del libro ancora piango, e dentro di me penso, per fortuna non mi vede nessuno, perché adesso l'ho detto davanti a tutti, ma perché non so neanche se è normale come reazione, perché Maria ovviamente è un personaggio della fantasia, però ripeto, è la somma di tanti personaggi, di tanti caratteri che io ho avuto anche la fortuna di incontrare nella mia vita. E ovviamente io penso anche, per esempio, se si parla di malattia, non se ne parla a caso, perché ho avuto la sfortuna di vivere in famiglia determinati determinate situazioni, quindi ecco che ogni situazione che io ho vissuto, che poi è romanzata, è infiocchettata, è messa apposta per una narrazione, comunque mi tocca in maniera profonda, senz'altro. Mi ha preceduto nella risposta, perché volevo chiedere se nei suoi personaggi c'è qualche cosa di autobiografico. Sì, direi di sì, in tutti quanti, non in uno in particolare. Sì, è un po' discreta come domanda. No, beh, sicuramente anche qua io credo che sia impossibile scrivere qualcosa con un metro che non sia un po' il tuo, in un certo senso è quasi impossibile secondo me, anche qualche narratore che dice che non c'è niente di sé, non lo so, mi sembra impossibile, in ogni personaggio c'è qualcosa di me, inevitabilmente. Sì, del vissuto. Vissuto anche, se, certo. Un'altra delle chiavi di lettura è l'insonnia, naturalmente, no? Basta, scusa. Io volevo dire questo, dai brani che sono stati letti, naturalmente, è qualcosa di triste, veramente triste. Per cui questo pessimismo che emerge, penso che nell'altra parte del romanzo, all'inizio, ci saranno anche dei fatti positivi, perché indubbiamente è molto triste la storia che finisce in questo modo, per cui diciamo c'è qualcosa di completamente negativo, anche se espresso in termini molto chiari e molto espressivi, ecco. No, cioè io non è che me l'hanno definito anche un romanzo di speranza, perché in realtà, seguendo i fatti narrati, emerge questa compassione che nei brani che abbiamo letto sembra venire a mancare, in realtà alla fine trionfa tra le due amiche, trionfa nell'espressione più grande di due sentimenti secondo me fortissimi, l'amore tra uomo e donna o in senso anche universale, e l'amicizia. Quindi diciamo, a libro chiuso, secondo me ci si può accorgere di quanta in realtà speranza ci sia all'interno di queste pagine. Non so se sei d'accordo. No, è assolutamente d'accordo, è quello grazie. Che ci hai detto. Grazie a lei. Tra le altre cose, non a caso io e Maria Grazia ci siamo sorrise, ci siamo guardate, ci siamo tenute per mano, non per l'applauso che stava già arrivando, quanto proprio per disegnare e raccontare una parte che riguardava la forza, la speranza, la forza umana, la forza della compassione, la forza, punto. Bravo. Bata bata o ancora ancora? Basta così? Sì, allora. Grazie mille. Mi sia piaciuto, ma mi sembra di sì.